24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Nello scenario peggiore, alle banche spagnole servono fondi tra i 51 e i 62 miliardi di euro per essere ricapitalizzate, mentre l'Eurogruppo si è impegnato con una somma fino a 100 miliardi di euro a sostegno del sistema finanziario iberico. E quanto risulta dagli stress test effettuati da Oliver Wyman, una delle società di consulenza alle quali la Spagna ha chiesto di effettuare studi per valutare le necessità del settore creditizio e per il quale Madrid si appresta a chiedere formalmente aiuti all'Eurogruppo. Zona. A esporre i risultati degli stress test è stata la Banca di Spagna. Intanto, ad Atene, il nuovo governo di coalizione greco guidato da Antonis Samaras ha giurato. L'inviato del Sole 24 Ore ad Atene, Vittorio Darold. L'uomo chiave di questa nuova compagine che è in mano quasi tutta a Nuova Democrazia è Vasilis Rapanos, il presidente della Banca Nazionale, la prima del paese, che sarà appunto il ministro delle finanze, l'uomo chiave che dovrà rinegoziare con Bruxelles appunto il famoso memorandum. La prima posizione è proprio quella di avere più spazio per decidere i tagli da 11 miliardi di euro che il governo di Atene, secondo l'attuale accordo, dovrebbe indicare entro fine mese. Atene chiede più tempo, più spazio, anche se questo dovrebbe in qualche modo aumentare il prezzo finale, perché Atene resterebbe fuori dal mercato per altri 2 anni e quindi alcune stime parlano di altri 20 miliardi di euro per salvare la Grecia. Grazie a Vittorio Darold. E all'annuncio che il nuovo governo greco vuole rivedere le condizioni del prestito, i governi europei hanno risposto in ordine sparso. Alla riunione dei ministri finanziari dell'Eurozona, la Finlandia dice no a scadenze più lunghe per la Grecia, l'Olanda apre a tempi limitati, mentre Italia, Francia e Austria sono favorevoli a un'apertura. Ferma sulla solita posizione la Germania, Atene deve rispettare gli impegni. E in attesa delle indicazioni dei ministri finanziari riuniti appunto a Lussemburgo e soprattutto del summit previsto per oggi a Roma tra il premier Mario Monti, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese François Hollande e il premier spagnolo Mariano Rajoy, i listini europei hanno chiuso contrastati. Sull'andamento delle borse nel finale hanno pesato le voci su un possibile downgrade dei rating di 17 banche internazionali da parte di Moody's. Francoforte ha chiuso in calo dello 0,77%, Parigi ha perso lo 0,39%, Londra è andata sotto dello 0,99%. Piazza Affari invece positiva. Milano ha vantato la performance migliore a dispetto della frenata registrata sul finale. Gli investitori scommettono che verrà presa qualche decisione a favore dell'Italia e così hanno acquistato azioni italiane e bond. Il FTSE MIB ha registrato un progresso dello 0,14% ed è stato l'unico indice a vantare un rialzo. Lo spread, che nel pomeriggio si era avvicinato alla soglia dei 400 punti, ha però chiuso di nuovo il rialzo a 423 punti. A Milano sono state ben comprate le banche. MPS ha vantato un progresso del 3% mentre si avvicina la data di lunedì in cui il consiglio di amministrazione dell'istituto esaminerà il piano industriale firmato dal neo amministratore delegato Fabrizio Viola. Sono inoltre volate le Sorin più 11% sull'ipotesi che sia presto lanciata un'OPA a 2 euro, come in parte confermato da Mittel, socio della società. La buona performance delle Sorin ha messo le ali anche alla concorrente Diasorin più 5,2%. Un giudizio critico di Goldman Sachs ha invece spinto giù le Mediaset meno 2,49%. Fiat ha perso mezzo punto percentuale risentendo dell'andamento debole dell'intero settore auto europeo. Hanno invece ripreso a correre le Ferragamo, più 3,29%. Eleonora Micheli da Radio Corp, per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. I governi vogliono continuare a nascondere i debiti. Membro dei conti truccati della Grecia, la presidente della Commissione Economica del Parlamento UE, Sharon Bowles, ha interrotto un negoziato denunciando che 4 governi rifiutano di fornire dati chiave sui debiti pubblici, su pensioni e salvataggi bancari. Secondo altre fonti parlamentari, 4 paesi sarebbero Italia, Francia, Germania e Portogallo. Avendo ancora fresco il ricordo delle disastrose conseguenze delle statistiche truccate in Grecia, ha dichiarato la Bowles, il Parlamento crede che il comportamento di questi 4 paesi sia altamente irresponsabile. Mi auguro di non uscire dall'euro e penso che l'euro vada difeso fino in fondo, lo ha detto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi commentando le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, secondo il quale l'uscita dall'euro e il ritorno alla lira non sarebbe una bestemmia. Penso ci debba essere una determinazione che attraversa tutta l'Europa per sostenere l'euro, ha aggiunto Squinzi. Gli ha fatto eco il ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera, che ha dichiarato: non c'è nessuna possibilità di uscire dall'euro. La Commissione europea bacchetta Italia e Gran Bretagna. I due stati non rispettano i propri obblighi in materia di protezione dei lavoratori contro le sostanze chimiche pericolose. Italia e Regno Unito hanno 2 mesi di tempo. Se non adotteranno provvedimenti per conformare la legislazione nazionale al diritto comunitario, la Commissione europea potrà deferirli alla Corte di giustizia. Il problema per i due stati è non aver recepito nel termine stabilito la direttiva europea del 2009. Questa direttiva, finalizzata appunto a proteggere i lavoratori dall'uso eccessivo di materiali pericolosi, fissa a 19 il limite di sostanze alle quali i lavoratori possono essere esposti nel corso della loro attività. Una mancata attuazione integrale della direttiva, spiega la Commissione, può far sì che alcuni lavoratori si trovino esposti alle sostanze chimiche pericolose privi di protezione. Giorgia Mennuni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per i cittadini europei conoscere le lingue è importante, ma negli ultimi 7 anni è calato il numero di chi è in grado di comunicare in una lingua straniera. Lo rivela una nuova indagine di Eurobarometro. Lucio Battistotti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Il dato generale è appunto quello che la conoscenza delle lingue straniere è leggermente calata, dal 56 al 54%. Perché sono calate? Perché, ad esempio, per quanto riguarda la Gran Bretagna, sempre meno inglesi parlano lingue straniere e non le studiano nemmeno più, per cui il governo Cameron sta introducendo una riforma scolastica per rendere obbligatorio lo studio di una lingua straniera fin dalle elementari. Poi c'è un altro punto interessante ed è questo, che in tutti i paesi dell'allargamento, cioè Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, eccetera, insomma i 12 nuovi stati membri, ecco, lo studio del russo e in certi paesi del tedesco era obbligatorio sino al 2004, ora non lo è più e quindi questo ha indotto una certa riduzione del numero delle persone che studiano le lingue straniere. Però dall'altro lato abbiamo visto che invece le competenze passive sono migliorate di molto, di 10 punti percentuali. Attraverso l'uso dei social media si acquisiscono delle competenze passive, diciamo, no? Per cui invece l'uso dell'inglese fondamentalmente, perché poi la lingua utilizzata è quella, è passato dal 26 al 36%, quindi in 7 anni. In chiusura il calcio di Euro 2012, all'inizio della seconda fase di questi europei si può iniziare a tirare un primo bilancio. Pronti via, ripartono gli europei con i quarti di finale. Una bella occasione per dare le pagelle sia ai paesi organizzatori sia alle squadre in campo che tanto per cambiare imitano nei risultati gli andamenti dell'economia. L'euro forte anche nel pallone è infatti quello tedesco, con questo strano paradosso che la squadra di Gomez, unica ad aver chiusa la prima fase con 3 vittorie, rischia di essere sospesa per eccesso di rialzo. E contro la piccola Grecia, che gode delle simpatie di chi non ama lo strapotere tedesco, rischia di far la fine di Golia. È uno strano derby di politica, arte e economia questo tra Grecia e Germania, con la cancelliera Merkel in prima fila nell'arena di Danzica. Il bello è che tra i greci c'è un Samaras, in questo caso bomber trentenne e omonimo del neopresidente. Ottime pagelle intanto vanno assegnate ad Ucraina e Polonia, tutto ha funzionato bene senza incidenti di rilievo, a parte quello con i tifosi russi a Varsavia. Belli gli stadi, ottimi i servizi, perfino gli arbitri, a parte il gol fantasma non dato all'Ucraina nel match con gli inglesi, si sono mostrati all'altezza. Dovremo erigere una statua a Platini, dice Lech Walesa, indimenticabile leader di Solidarnosc. Vedo attorno a me nuove strade, aeroporti, stazioni. Ai miei tempi, cose del genere, non le avremmo fatte neanche in 100 anni. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Pietro Lacorte in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.